in primo piano. Buongiorno, buongiorno da Gianfranco Fabi. Oggi giovedì 22 agosto 2013, l'estate, come dicevamo, già da qualche giorno sta finendo, le nebbie sulla politica italiana stanno crescendo e questo è un po' il senso dei titoli principali. Quasi tutti i giornali oggi aprono sul tema politico, sull'incontro che c'è stato ieri tra Letta e Alfano, con interpretazioni forse leggermente diverse. Per esempio Repubblica dice: Letta Alfano rottura su Berlusconi, il PDL se passa la decadenza cade il governo, il Premier ultimatum inaccettabile. Il Corriere della Sera è solo un filo più cauto, Letta e il PDL a un passo dalla rottura, quindi non ancora la rottura ma un passo dalla rottura. Il Premier dopo l'incontro con Alfano: non accetto ricatti né ultimatum. La Stampa: crisi, pressing PDL su Letta, rinvio del voto su Berlusconi, si chiede La Stampa. Il Premier: paradossale farlo cadere ora. L'Unità: Letta, non accetto ultimatum, duro fatta a faccia con Alfano a Palazzo Chigi. E anche il Messaggero: governo, il PDL verso l'uscita. 20 di crisi, fumata nera dopo l'incontro tra il Premier ed Alfano, le posizioni restano distanti. Il centrodestra: Letta convinca il PD a salvare Berlusconi, la replica: non posso intervenire. Ecco, sul fronte delle cose concrete sembra peraltro che ci sia qualche elemento di avvicinamento. Per esempio tutti i giornali danno conto di questo sostanziale accordo sull'IMU, sull'abolizione della prima rata dell'IMU, niente IMU per gli inquilini, dice il Messaggero, e così come altri giornali. Sottolinea appunto che sul fronte delle cose concrete qualcosa c'è, uno spiraglio solo sull'IMU. Per esempio dice Repubblica, però appunto il nodo di fondo resta quello della politica e della sentenza da applicare per Berlusconi su quali via d'uscita prendere. Altri temi importanti sui giornali sono quelli di politica estera, soprattutto oggi quello della Siria. Più di 1300 morti col gas nervino, dice il Corriere della Sera. Video e foto diffusi dall'opposizione. Assad nega, riunito il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Siria, la guerra chimica contro i bambini, è il titolo di Repubblica, che è anch'essa una foto di vittime del gas nervino. E anche qui c'è un problema, se vogliamo anche una piccola polemica sulle fotografie, perché queste foto appunto diffuse dall'opposizione indubbiamente scuotono le coscienze, sono foto molto, molto drammatiche. Allora usare o non usare queste foto, rendersi in qualche modo magari foto in qualche modo che potrebbero essere anche manipolate, ma su questo fronte per esempio Avvenire fa una scelta che si può indubbiamente discutere, ma che è una scelta che è precisa, anche se Avvenire pubblica alcune fotografie. Però dice: basta sguardi e dibattiti inutili. Quante persone sono morte ieri nei combattimenti in Siria, si chiede Avvenire. A due tiri l'agenzia di stampa scrivono 213, al pomeriggio erano diventate 1003. Forse non lo sapremo mai, nemmeno conosceremo il nome di quel bambino che, inerte come una bambola, viene deposto in fretta, ma non senza cura, in una barella e coperto da un lenzuolo bianco, accanto ad altri corpi esili come il suo. Le immagini, foto e video diffuse attraverso i social network, grazie a quello che nei manuali per gli aspiranti reporter si chiama citizen journalism, sono terribili. La scelta di Avvenire, anche nella sua edizione online, come i nostri lettori pensano, di non offrire agli sguardi lo scempio più impressionante. Di fronte a questo ennesimo sterminio, di fronte alle vittime allineate ordinatamente per terra interminabile file, conta davvero che siano caduti 200, 600, 1300? Le furiose polemiche su chi in Siria o altrove strumentalizza i morti e su quale divisa abbia forse ordinato di gettare il gas sui civili rischiano di sovrastare la pena e l'orrore per le vite spezzate. Le immagini, è già successo in queste ed altre guerre, scrive Avvenire, possono essere state diffuse ad arte per screditare l'avversario. Il numero delle vittime può essere stato gonfiato, resta un fatto incontrovertibile. Che i dibattiti da salotto Bellotto sull'uso spregiudicato dei media e dei social network nella guerra, non devono far passare in secondo piano quei bambini, quelle donne, quegli anziani, con i loro corpi, con le immagini mostrano infatti non sono morti nel sonno per un incidente. Nel furore delle accuse incrociate non riduciamoli, anche noi, a pedine di distorte strategie militari. Rendiamo loro uno sguardo di pietà, soprattutto pretendiamo verità e chiediamo alla comunità internazionale di non limitarsi a dottamente discutere di foto vere o false e di non rimanere a guardare l'ennesimo massacro della martoriata Siria. Questo era Avvenire, che spiegava appunto la scelta di non pubblicare le immagini più cruente, più drammatiche, che potrebbero essere anche state create ad arte dell'opposizione, ma di andare comunque, di restare al centro del problema, di restare al centro del dramma che sta vivendo appunto la Siria, così come l'Egitto, così come altri paesi dove non si riesce a trovare appunto una soluzione interna. Anche Massimo Gramellini sulla stampa si sofferma sul tema appunto della Siria, i ribelli, Assad usa il gas, ecco le prove dove le parole non arrivano, scrive Massimo Gravellini. Vi chiediamo scusa per l'intrusione, è estate, i tempi sono già abbastanza duri e da un giornale si pretende giustamente un alito di speranza, ma la speranza si nutre di consapevolezza e invece intorno a noi avvengono cose che ci rimbalzano addosso. Abbiamo imparato a difenderci dalle parole, svuotandole, rendendole innocue. Solo le immagini hanno ancora il potere di svegliarci, sbattendoci in faccia la vita in ogni sua espressione, anche inaccettabile, tanto non è far più finta che non esista e che non ci riguardi. E questo è Massimo Gramellini sulla stampa. Ieri, durante la riunione del mattino, al giornale è planata la notizia che, secondo l'opposizione, le truppe di Assad avevano compiuto una strage nei sobborghi di Damasco utilizzando gas nervino. 100, 200, 1000 caduti. Il collega degli esteri riportava l'incerta contabilità senza suscitare reazioni particolari, atrofizzato in una statistica. La morte di massa non fa scalpore. Poi sono arrivate le foto, il clima è cambiato, i numeri sono diventati volti e i corpi serrati dentro i lenzuoli. L'assenza di ferite d'arma da fuoco, quindi di sangue, rendeva i cadaveri quasi metafisici. Sembravano angeli, specie i bambini. Il governo siriano nega l'uso dei gas, che le immagini potrebbero invece suggerire. Ma al di là di ogni interpretazione o speculazione di parte, le foto di quei bimbi, di quelle madri, sono lì per ricordarci che qualcosa di indicibile sta avvenendo da troppo tempo, a non troppo distanza da noi. Qualcosa si è inghiottito anche il nostro inviato Domenico Quirico, che era andato lì per raccontarlo. Prenderne personalmente coscienza è un esercizio doloroso, ma forse non del tutto vano. È Massimo Gramellini sulla stampa, che invita appunto ad andare oltre, a guardare queste fotografie come delle testimonianze di una realtà drammatica. Una realtà drammatica, le foto appunto che riportano un po' tutti i giornali sono queste dei bambini allineati, avvolti in delle lenzuola bianche con delle persone che gli sono vicine, ma è appunto l'immagine di un dramma collettivo che sta sconvolgendo un paese e che appunto certamente è difficile pensare che ci possano essere delle soluzioni che si possano imporre, però già avere coscienza di questo e già fare un passo avanti per partecipare a questo dramma molto forte che è vicino a noi, ai nostri confini, e sta portando per esempio anche migliaia di profughi, di immigrati che stanno arrivando sulle nostre coste proprio per le difficoltà nel loro paese. Torniamo agli argomenti politici, diamo un'occhiata al Sole 24 Ore, più sul fronte che punta molto sull'economia, che se il titolo non manca, Letta Alfano fumata nera su Berlusconi, vicini sull'economia, però sottolinea il Sole 24 Ore. Ecco, ricordo che oggi il Sole 24 Ore ha in allegato il mensile di Idee Lifestyle, che dedica questo numero alle serie televisive, un modo di fare fiction che sfida in termini qualitativi il mondo del cinema. E il appunto arruolato per questa per parlare di serial di serie televisive gli scrittori, molti scrittori contemporanei, da Alessandro Piperno a Francesco Pacifico, da Chiara Gamberale a Camilla Baresani e Emanuele Trevi, che appunto raccontano le loro esperienze. E su Il, come è abitudine, appunto per questo mensile, c'è anche una guida alle 117 novità della prossima stagione. Il Sole 24 Ore apre la sua prima pagina con il tema strettamente finanziario, economico-finanziario. La Fed, la Banca Centrale Americana, divisa sulla stretta agli aiuti. Restano molte incertezze sull'economia. Wall Street tiene, -0,6, Milano -0,7. Anche altri giornali appunto raccontano delle divisioni all'interno della Banca Centrale sulla strategia da attuare nei prossimi mesi, se continuare sul piano degli stimoli oppure se rientrare e alzare anche i tassi di interesse in un momento in cui si manifestano i primi segnali, soprattutto sul fronte americano, di ripresa dell'economia. Ma sottolinea Marco Nado nel suo editoriale come i governatori, il titolo è Governatori in ordine sparso, e come l'economia mondiale è ancora dominata da forti elementi di incertezza. Scrive Marco Nado: nonostante recenti segnali positivi, vale ancora la diagnosi del Fondo Monetario di circa un mese fa, basata sui tre punti essenziali. La crescita complessiva rimane di sotto del 3%, il miglioramento negli Stati Uniti, ma anche in Giappone, è più deciso che in Europa. Infine, alcuni paesi emergenti, in particolare Cina e India, sono impegnati a contenere gli effetti della crescita eccessiva del credito che ha accompagnato la grande espansione degli ultimi anni. Le strade delle banche centrali divergono quindi sia per motivi di carattere strettamente economico, sia per motivi collegati alle diverse strategie che perseguono e in particolare alle indicazioni che forniscono al mercato sui loro obiettivi. E Marco Onado analizza la situazione anche sul fronte europeo, sottolineando come l'Europa è un caso esemplare di questa difficoltà, di questa schizofrenia. L'attenzione dei mercati è rivolta a ogni sillaba, a ogni levar di sopracciglio di Mario Draghi, ma i problemi irrisolti sono altrove. Basta rileggere l'ultimo documento del Fondo Monetario sull'area dell'euro, che indica come priorità numero uno quella di risanare i bilanci delle banche per far ripartire il credito, cioè un'azione che non si risolve con iniezioni indiscriminate di liquidità, che casomai contribuiscono a mantenere in circolazione zombie banks, come è accaduto in Giappone per quasi 20 anni, ma con l'accentramento della vigilanza che sta avvenendo in ritardo e con l'unione bancaria, non a caso indicata dal fondo come priorità numero due, su cui gravano ancora pesanti incognite. Ancora Marco Onado sul Sole 24 Ore: le incertezze sulle condizioni delle banche europee, a cominciare da quelle dei paesi dell'area centrale, sul destino di quelle che non supereranno il test sulla qualità dell'attivo che la BCE si appresta a svolgere, hanno un effetto molto più negativo della probabilità che il tasso futuro a breve scenda ancora di qualche decimo di punto di base rispetto ai livelli già prossimi allo zero di oggi. E conclude Marco Nado: le banche centrali hanno potuto agire di concerto per quasi 6 anni perché dovevano far fronte a un fatto eccezionale, colpevolmente imprevisto, come la crisi finanziaria. Ma oggi è naturale che i toni divergano, noi si può invocare un improbabile direttore d'orchestra, magari biondo o teutonico come quello di prova d'orchestra di Fellini. Sono i governi che devono trovare una risposta concreta ai problemi della crescita e dell'occupazione, ed è l'Europa nel suo insieme che deve cambiare passo nelle riforme e nel processo di integrazione. Questo era Marco Onado nell'editoriale del Sole 24 Ore, Governatori in ordine sparso. E abbiamo su Sole 24 Ore una notizia anche dall'America: Goldman Sachs, ordini sbagliati e danni per 100 milioni. Centinaia di migliaia di ordini sbagliati sul mercato delle opzioni sono stati inviati nell'arco di un quarto d'ora da Goldman Sachs martedì a Wall Street per un problema tecnico. E questo è quanto capita quando l'informatica la fa un po' troppo da padrona. Sempre sulle 24 ore inizia un viaggio nella Germania, dove alla vigilia del voto, la vera forza dell'alternativa che minaccia il futuro dell'euro è Germania a un mese dal voto, un reportage di Carlo Bastasin. Di Europa ne parla anche l'editoriale del Messaggero, l'editoriale di Marco Fortis, dedicato appunto a come l'Europa deve attuare la propria politica l'Italia deve guidare e l'Unione Europea a investire sull'energia, ma lo vedremo alla ripresa del nostro programma dopo un piccolo spazio dedicato al meteo e alla pubblicità. In primo piano. Eccoci qua ancora da Gianfranco Fabio a leggere i giornali di oggi, giovedì 22 agosto. Vi parlavo dell'Europa, della politica europea e del come l'Italia deve guardare l'Europa. Lo fa Marco Fortis in un editoriale sul Messaggero e dove sottolinea che nel futuro dell'Europa dovrebbe essere posto più equilibrio tra austerità e sviluppo. È data più rilevanza agli investimenti in conto capitale che alla spesa pubblica corrente, da aggredire vigorosamente nei suoi sprechi. In questo scampo, scrive Marco Fortis, a nostro avviso, dopo le elezioni tedesche, se l'Europa non vorrà continuare ad essere solo matrigna, vanno introdotte opportune correzioni di rotta su cui l'Italia deve battersi con forza, sostenendo la candidatura di un tedesco europeo favorevole alla crescita ed amico del nostro paese, come Martin Schulz, attuale presidente del Parlamento europeo, alla prossima presidenza della Commissione, riportando al centro del dibattito la politica industriale, gli investimenti in infrastrutture, rete e conoscenze, nonché la lotta alla disoccupazione, specie giovanile, cavallo di battaglia di Enrico Letta, ma anche ponendo sul tavolo con altrettanta decisione il tema dell'energia in un'Europa letteralmente senza energia. Nel 2012, scrive Marco Fortis, infatti il deficit commerciale dell'Eurozona verso il resto del mondo per i prodotti energetici, petrolio e gas su tutti, è stato di ben 356 miliardi di euro, cifra ben più alta di 296 miliardi di interessi sul debito pubblico pagati nello stesso anno da tutti i paesi della moneta unica. Come dire, il debito energetico pesa assai di più di quello pubblico, ma che non si fa quasi nulla per combatterlo. Ed è questo il richiamo di Marco Fortis, un richiamo molto concreto alla concretezza della politica italiana, della politica europea, una concretezza che appunto è fatta da una politica che fa le riforme necessarie, che attua i provvedimenti necessari e che forse cerca di superare in maniera un po' più rapida di quanto accade in Italia, possiamo dire così, gli inevitabili incidenti di percorso come quelli che stanno avvenendo. Ecco, di concretezza, di cose da fare, parla per esempio il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, che cosa fare subito per rilanciare il nostro turismo. Ed è significativo che un giornale molto politico come Libero abbia appunto nella sua prima pagina non tanto non solo i problemi di Berlusconi e del governo, ma anche un tema come quello del turismo, che spunto appunto in questo editoriale di Maurizio Belpietro, ed anche il tema delle pensioni. Crisi a un passo, dice Libero, però ci tagliano le pensioni per pagare il ribaltone. Dicono che useranno i soldi dei nostri contributi per alzare i vitalizi minimi, ma il ministro Giovannini svela un altro piano: finanziare il reddito di cittadinanza per convincere i grillini a cambiare, a formare una nuova maggioranza. E l'articolo è di Mario Giordano. Quindi c'è questa interpretazione da parte di Libero. Libero dice vogliono appunto dare una qualche soddisfazione ai grillini per cercare una nuova maggioranza alternativa a quella attuale, visto che quella attuale sembra che abbia i giorni contati, se il temporale su Berlusconi farà la sua continuerà ad andare avanti e si trasformerà appunto in lampi, tuoni e fulmini. Ma appunto vi dicevo di Libero e dell'editoriale direi molto, molto interessante di Maurizio Belpietro, cosa fare per rilanciare il turismo. E appunto Belpietro dice: in Spagna il turismo dà lavoro a quasi il 13% degli spagnoli, in Francia si supera i 10%, noi al contrario ci fermiamo al 9,7%. Risultato: se solo raggiungessimo la quota dovuta dai francesi avremmo 600.000 posti di lavoro in più, saremmo in grado di assorbire tutte le persone che sono state licenziate negli ultimi 2 anni. Fantasie, scrive Maurizio Belpietro, niente affatto. E per capirlo basta di nuovo tornare al caso Sicilia, Palermo e degli aeroporti dell'isola. In una settimana settimana di luglio sono arrivati dalla Germania solo 17 voli low cost, cioè meno di 20 aerei charter che trasportavano turisti. Alle Baleari i voli carichi di tedeschi in ciabatte e mutande da bagno sono stati 223. Complessivamente in Spagna, da Cuccolandia, cioè dalla Germania, sono giunti 522 aerei, più del doppio di quelli atterrati in Italia tra il 16 e il 22 luglio del 2012. Perché, si sono domandati gli esperti della Bastard Mastell, di cui è citato uno studio, i concittadini della Merck preferiscono la penisola iberica a quella italiana? Semplice, la ragione sta nelle infrastrutture: migliori aeroporti, migliori strutture ricettive, cioè alberghi moderni dotati di comfort, migliore organizzazione. Da noi, scrive Maurizio Belpietro, sul Libero ogni campanile spende soldi nella convinzione di attirare turisti sottraendoli alla località vicina. Risultato, invece di una politica coordinata di rafforzamento della nostra immagine e della nostra offerta, il denaro pubblico finisce in clientele e iniziative velleitarie. Insomma, nella migliore delle tradizioni, i soldi dei contribuenti vengono buttati dalla finestra senza che il paese o la regione interessata ne traggano alcun vantaggio. Provate invece a immaginare quante cose si possono fare con 129 milioni, cioè quelli che da sola spende ogni anno la Sicilia per avere meno turisti delle Baleari. In una legislatura fanno 650 milioni, stienti mica bruscolini, forse non serviranno a rifare un aeroporto, ma a migliorare qualcosa di quel che non va, di certo sì. Ecco, invece delle tante chiacchiere sugli incentivi e gli stimoli dell'economia che si fanno ogni giorno e ad ogni convegno, perché Enrico Letta non prova a fare questo, cioè a impiegare meglio i fondi del turismo? Forse così qualche occupato in più lo recupera. Ed era Maurizio Belpietro su Libero, un articolo appunto che sottolinea come l'esigenza di fare delle cose concrete sia di estrema attualità, di cogliere le opportunità, le grandi opportunità che l'Italia ha. Ma torniamo alla politica reale, alla politica di cui si parla, al caso, al governo in bilico. Il Giornale ha un lungo articolo di Paolo Guzzanti, che in pratica è un'intervista, anche se non è un'intervista a domanda e risposta, però riporta molto delle opinioni dello stesso Berlusconi, e dice: cosa farà il Cavaliere? Berlusconi smaschererà i giudici, l'ex premier spiegherà agli italiani tutte le falle del processo Mediaset e l'assurdità della condanna. Ecco che cosa dirà. E conclude Paolo Guzzanti appunto entrando nel merito della sentenza che ha condannato Berlusconi. Ditemi voi, scrive Paolo Guzzanti, qualcuno più informato di me, quanti imprenditori, evasori, uomini politici sono finiti in galera per evasione? La memoria non mi soccorre, la Guardia di Finanza ha appena accertato 5.000 evasori totali, ora identificati, che hanno soldato al fisco 17 miliardi di euro a spese dei contribuenti onesti. Non ricordo di aver letto una processione di cellulari che li abbia trasferiti in galera. Eppure 17 miliardi sono più del doppio dei miliardi di ricchezza che le aziende di Berlusconi hanno versato nelle casse dello Stato. Ma Berlusconi è stato condannato alla galera per una supposta evasione dell'1,2% delle sue imposte. Beh, sarà tutto vero, ma c'è qualcosa che non quadra, scrive Paolo Guzzanti. Per la cronaca, Berlusconi mi ha confermato che non chiederà la grazia, non chiederà i servizi sociali, non chiederà i domiciliari, non chiederà nulla. C'è in ballo un enorme problema politico ed è quello, deve pensare chi ha gli strumenti per farlo, dice. Penso alluda al Presidente della Repubblica, ma non l'ha detto. Ci siamo salutati e mi sembrava tutt'altro che depresso o rassegnato. Questo era l'articolo di Paolo Guzzanti su Il Giornale, cosa farà il Cavaliere, che conferma appunto il fatto che Berlusconi stia preparando un discorso da fare in Senato per rilanciare appunto le sue accuse alla magistratura e per trarre delle conclusioni politiche. E quali possono essere queste conclusioni o quale potrà essere lo scenario? Una persona ben informata dei fatti, come Bruno Vespa, lo scrive su Il Giorno: un patto con il Quirinale. E dove vuole arrivare Bruno Vespa con questo patto con il Quirinale? Ecco, Vespa inizia il suo articolo parlando dell'Italia, e l'Italia certamente un po' anomala rispetto al resto del mondo, vista da uno dei paesi più ricchi e avanzati, l'Italia sembra davvero un altro mondo. In Canada, un imprenditore torinese paga il 5% di IVA, il 20% di imposta sulla società, il 10% sui primi $90,000 di guadagno personale e finanzia la sua azienda al tasso del 4,2%. L'Eni sta facendo grossi investimenti e c'è la corsa dei giovani italiani a venire a Vancouver, stato del British Columbia, dove un imprenditore romano spende $130 per ogni 100 di salario netto dei suoi dipendenti, paga imposte del 18% della società e imposte personali con un tetto del 33%. E da noi che succede? Si chiede Bruno Respa. Fare una crisi di governo appena si accenna un referendum di ripresa è da pazzi. Non farla nelle condizioni date sembra quasi impossibile. Dunque serve un duplice patto con un avvertimento, spiega e direi quasi sollecita Bruno Vespa. La classe politica più giovane, soprattutto la sinistra, è vittima dei social network. Durante l'elezione del Presidente della Repubblica un'ondata di tweet è stata sufficiente a mandare in aria la candidatura di Franco Marini. Perciò o si ha il coraggio di prendere decisioni autonome dagli smartphone o la politica è morta. E veniamo al primo patto. I dubbi sull'applicabilità retroattiva della legge Severino non sono stravaganze. Se l'incandidabilità di chi è membro di una Camera è una sanzione amministrativa, si applica comunque quello che è definito il principio di legalità, cioè che nessuno può essere punito per una legge successiva alla violazione commessa. Ed è ancora Bruno Vespa. Se invece è solo una condizione per poter continuare a ricoprire l'incarico, dovrebbe intervenire il buonsenso. Poniamo che con un provvedimento amministrativo da domani l'altezza richiesta per fare il soldato sia elevata a 1,75 m. È immaginabile? Che decadano tutti quelli di altezza inferiore assunti in precedenza? Ci sono margini di discussione. D'altra parte, a chi vuol colpire Berlusconi non conviene agitarsi più di tanto, visto che quando la Corte d'Appello di Milano e poi la Cassazione avranno definito la misura dell'interdizione, da qui a qualche mese il seggio senatoriale sarà comunque perduto. Il secondo patto, scrive ancora e conclude Bruno Vespa sul Giorno, e il secondo patto è più delicato e riguarda il rapporto tra il capo dello Stato e il leader del centrodestra. La grazia può essere un atto autonomo e nel nostro caso ha senso solo se si estende anche alle pese accessorie. In questo caso Berlusconi verrebbe mondato delle sue colpe in attesa del processo Ruby. Può il capo dello Stato muoversi in questo senso senza alcuna disponibilità da parte del condannato? È molto improbabile, risponde Bruno Vespa. Per sollecitare una decisione così impegnativa e per recuperare la sua piena agibilità politica, Berlusconi può offrire una sola contropartita: rinunciare spontaneamente al seggio senatoriale dimettendosi. È vero che senza lo scudo dell'immunità all'arresto Berlusconi può essere sbattuto in prigione da uno dei tanti giudici che decidono di farlo, ma dubitiamo che questo accada. Sarebbe uno schiaffo al capo dello Stato e soprattutto garantirebbe al centrodestra una vittoria elettorale a tavolino. Avranno Napolitano e Berlusconi il coraggio di fare simultaneamente un passo così forte? Conclude il suo editoriale sul Giorno Bruno Vespa, che chiede un gesto di buona volontà, ma da quanto scriveva Paolo Guzzanti, riportando appunto le dichiarazioni di Berlusconi, non sembra che Berlusconi abbia intenzione di fare alcun passo indietro, di fare alcun gesto che possa in qualche modo tener conto o appunto dimostrare che tiene conto appunto della realtà che è emersa dalla sentenza della Cassazione. La sintesi della situazione attuale, quella che viene dal titolo di editoriale del Corriere della Sera di Pierluigi Battista, sospesi nel vuoto. Berlusconi sa benissimo che dall'abbattimento del governo presieduto da Enrico Letta non ne scaturirebbe nessun vantaggio pratico sul piano delle sue vicende personali e giudiziarie. Investire il governo di compiti che non gli sono propri, pensare che la soluzione di un problema giudiziario possa entrare nel novero dei provvedimenti di un governo, mescola piani che non possono che restare distinti. E poi continua Pierluigi Battista: il PDL ha tutto il diritto di denunciare la commissione democraticamente anomala tra politica e magistratura e anche di considerarsi vittima di un accadimento che dal 94 in poi ha messo il suo leader nel mirino di numero incalcolabile di inchieste giudiziarie. Può anche portare le sue buone ragioni, peraltro avvallate da molti giuristi e costituzionalisti di area berlusconiana, sull'interpretazione della nuova legge Severino. Ma la politica degli ultimatum scrive Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Peraltro, in modo inconcludente, come si è visto nel vertice di ieri tra Angelino Alfano e Enrico Letta, esprime solo uno spirito di rappresaglia fondato su un calcolo tutto da verificare, quello secondo il quale il PDL potrebbe avvantaggiarsi di un rapidissimo ricorso alle urne. Era l'analisi di Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Diamo la linea al traffico. In primo piano. Eccoci per l'ultima parte di In primo piano, l'ultima parte che dedichiamo, che mi piace dedicare al Sole 24 Ore, sentendo uno dei capi redattori del Sole 24 Ore. Buongiorno a Mauro Meazza. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mauro Meazza, tra l'altro, spesso è anche a questo microfono a fare la rassegna stampa, adesso è dall'altra parte e ci spiega un po' anche il Sole 24 Ore di oggi. Abbiamo parlato già della Fed, il titolo principale, la Fed divisa dagli aiuti, ho letto una parte del titolo di Marco Nado. Vorrei soffermarmi con te sull'IMU verso l'intesa sull'esenzione, cioè sulle cose un po' concrete che sta facendo questo governo. Non si pagherà più l'IMU, si pagherà la service tax, comunque. Sì, qualcosa, ahimè, bisogna dirlo già Gianfranco, si pagherà comunque qualcosa. Diciamo che l'intesa di ieri, al di là delle cose politiche di cui davi conto anche poco fa, è un'intesa sul piano economico. Adesso sarà da oggi al lavoro tutto lo staff del ministro Saccomanni, con il rientro anche del ministro stesso. Quindi cosa si sta pensando? Di esentare sostanzialmente, quindi l'IMU resta, ma di esentare una buona fetta di tutte le abitazioni di partenza. Dipende da dove mettiamo l'asticella, si può lavorare sia sulla rendita catastale dell'immobile sia sull'importo di IMU dovuta, e sostanzialmente si cerca di dire: oltre questo importo, sotto a questi importi non si paga IMU. Ne riferiscono oggi Rogari e Patta sul nostro giornale. La misura, come dire, è tutta da studiare e da capire. Poi c'è il problema service tax, perché parlando tanto di IMU ci dimentichiamo che incombe su di noi anche la TARES, ci costerebbe più di 1 miliardo di aggravio, ci costerebbe, vuol dire, a noi cittadini, e la tassa sui rifiuti. Qui si tratta di superare appunto l'impasse. L'idea è di trasferire questo prelievo dentro alla nuova service tax che si pagherà dal 2014. Mi sembra di capire che alla fine ci possa essere anche da parte dei comuni un alleggerimento della pressione fiscale sul cittadino per quanto riguarda l'IMU. Per quanto riguarda invece la tassa rifiuti, sostanzialmente gli importi dovrebbero rimanere molto vicini, forse una riorganizzazione, una semplificazione dei pagamenti. Ecco, possiamo ricordare anche che il Sole 24 Ore oggi ha alcuni inserti speciali: il decreto lavoro, le novità per i contratti, le principali novità appunto al centro della prima puntata della guida al lavoro, della guida al lavoro, e c'è anche le misure appunto per rilanciare l'occupazione del decreto appunto sul lavoro, e sul fronte della casa il bonus risparmio energetico anche per i fabbricati di impresa, la detrazione IRPEF e IRAS del 55% sugli interventi relativi al risparmio energetico degli edifici può essere utilizzata da tutti i contribuenti a prescindere dalla tipologia di reddito. Quindi Mauro Meazza, qualche risparmio il fisco ogni tanto ce lo fa fare, bisogna però saperlo utilizzare. Sì, ma infatti, come dicevi tu, stiamo cercando anche di capire quello che di concreto si è potuto mettere in atto finora con questo governo un po' anomalo, con questa maggioranza anomala. Questo sforzo di spiegazione sul decreto del fare, che comincia oggi con questo inserto, sul decreto lavoro, che comincia oggi con questo inserto, proseguirà martedì con un secondo inserto, va a spiegare appunto tutte le novità che il governo ha voluto introdurre per cercare di alleggerire le norme rivelatesi controproducenti della legge Fornero, che, come sappiamo, ha scoraggiato specialmente l'occupazione a tempo determinato. Quindi meno vincoli, più possibilità per le aziende di utilizzo e di utilizzo più facile anche dei contratti a tempo determinato, nella speranza, nell'auspicio di tutti che questo dia sollievo al problema dell'occupazione, che come sapete è un problema mondiale. La stessa Fed nelle sue minute poi si concentra sulla soglia di occupazione come soglia critica per decidere poi una politica monetaria. Quindi questo sta a dire che la crisi, l'effetto occupazionale della crisi è quanto preoccupa di più i governi, non solo italiano ma di tutto il mondo. E poi vorrei anche fare una specie di promo, perché domani presenteremo in formato digitale il famoso decreto del fare, oramai famoso, spiegato comma per comma, quindi i nostri abbonati, chi acquista la nostra versione digitale, potrà leggere la disposizione, ma soprattutto avere accanto la spiegazione dei giornalisti e degli esperti che dicono che cosa questa disposizione sta a significare, quindi la riscossione che cambia piuttosto che le multe pagabili a prezzo scontato purché in tempi rapidi e quant'altro. Ecco, tra multe, tasse e cose del genere di soldi ne restano pochi, ma se dovessero restare qualcosa e qualcuno volesse risparmiare in maniera magari un po' diversa, rimane sempre la tentazione dell'oro. L'oro è ancora un bene rifugio, e chiudiamo qui questa panoramica sul Sole 24 Ore, anche oggi questa serie di pagine dedicate appunto al risparmio, dedicata appunto al metallo giallo, un tradizionale bene rifugio che però negli ultimi tempi ha mostrato molta volatilità. Grazie Mauro Meazza, buon lavoro. E grazie a voi. Continuiamo con ancora per qualche minuto a dare un'occhiata appunto ai giornali, qualche curiosità anche qui che tocca però da vicino le nostre tasche, quella che ci viene dal Messaggero. Caro scuole, i libri costano il 5% in più alla vigilia dell'avvio del nuovo anno scolastico. Il caro scuola diventa un'emergenza per le famiglie, qui un po' un rituale quello che questo linguaggio di emergenza che ha il Messaggero, però è sicuramente un dato rilevante. I consumatori lanciano un grido d'allarme: in base alle loro stime il corredo scolastico costerà dal 2 al 3-5% in più rispetto all'anno scorso, mentre per l'acquisto dei libri è stato stimato un aumento dei prezzi del 3-5%, saranno gli zaini, gli astucci, le borse a tracolla, sempre più di moda, soprattutto tra gli alunni più grandi. Per i libri più due dizionari si spenderanno mediamente almeno 521 euro per studente. Ecco, questo ci ricorda questo titolo del Messaggero, che andiamo verso l'autunno, la ripresa delle scuole alla fine dell'estate, così come l'autunno. In alcune zone è iniziata la vendemmia, ieri in alcune aziende agricole è iniziata la vendemmia, e c'è anche con la vendemmia c'è qualche scontro, qualche polemica, lo prendiamo anche qui dal Sole 24 Ore, un editoriale nelle pagine interne. L'avvio della vendemmia in Franciacosa si sta iniziando in questi giorni, gli altri principali territori seguiranno a settembre, rinfocola la polemica sulla modalità di reclutamento degli avventizi. Negli anni lo scenario tra i filari è cambiato, non sono più le cantine a reclutare i braccianti ma le cooperative di intermediazione. I vendemmiatori non sono più i pensionati, gli studenti, ma nella maggior parte dei casi lavoratori stagionali provenienti dall'estero. La crisi ha aggravato ulteriormente la situazione, e così la proposta di alcuni in Franciacorta, analoga iniziativa è stata studiata nell'Oltrepò, per organizzare una vendemmia di solidarietà riservando posti e solo casse integrati del territorio, ha spaccato il sindacato. Il rischio è che non vengano rispettate le regole della contrattazione nazionale, meglio evitare in queste situazioni inutili guerre tra poveri. Servirebbe solo un briciolo di buonsenso per tracciare regole chiare una volta per tutte sull'incontro tra domanda e offerta anche tra i filari. Pare se ne occuperà a settembre, come auspicano i rappresentanti dei lavoratori, un tavolo ministeriale. Quindi dovremo aspettare a settembre. Questo era un commento sul Sole 24 Ore di oggi, un commento che torna appunto su uno dei temi poi di fondo della realtà italiana, il tema appunto della difficoltà di fare concordare le regole col buonsenso. È chiaro che la vendemmia è qualcosa che dura 15 giorni, 3 settimane, e non si possono prendere degli operai a tempo indeterminato, ma anche qui prendere le regole spesso sono fatte per essere violate. Torniamo per concludere questa nostra rassegna sui temi di politica estera, con cui abbiamo iniziato parlando della Siria, ma per citare anche altri giornali che dedicano spazio appunto ai temi esteri, il Manifesto ha come tema principale soldato scelto questa notizia che Bledel Manning, condannato a 35 anni per aver rivelato tramite WikiLeaks gli errori delle guerre in Iraq e in Afghanistan, è la pena più alta mai erogata contro un informatore della stampa negli Stati Uniti. Ma del Manifesto c'è anche un interessante articolo di Tommaso Di Francesco, La resurrezione della mummia, che è dedicato alla liberazione di Mubarak. Mubarak torna libero, il tema egiziano è sempre in primo piano, se non sulle prime pagine. Resta una tensione molto forte nella vicina Repubblica egiziana. Resta solo da vedere, si chiede Francesco Di Tommaso, se il 25 agosto sarà assolto appunto Mubarak anche per l'uccisione di centinaia di manifestanti di 2 anni fa. Anche per quest'ultima accusa non c'è molto da sperare. Se infatti Mubarak venisse condannato, come farebbero i generali a passare per innocenti di fronte alle loro stragi, che secondo la poca veridica versione governativa sono 1000 i morti e più di 4000 i feriti? La mancanza di ogni pietà da parte dei militari corrisponde probabilmente proprio a questi fantasmi. Se non facessero subito terra bruciata con le uccisioni, il carcere, ricacciando dalla clandestinità i fratelli musulmani, toccherebbe inevitabilmente a loro. È ancora il tema egiziano che torna in primo piano, e con questo concludiamo la lettura dei giornali di oggi. Ci sarebbero tanti altri argomenti di cui poter parlare e che avevo segnato, ma il tempo è tiranno. Grazie a tutti, l'appuntamento è per domani.